BNL Unipol, Fazio 3 anni e 6 mesi, a consorte 3 anni e 10 mesi. Scontro sui licenziamenti, l'allarme terrorismo di Sacconi, Ichino a Radio 24, il rischio oggi non è maggiore di ieri. Allerta in Liguria per una nuova perturbazione, ancora 4 i dispersi. Una buona giornata da Anna-Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Tra poco i dati Istat sull'inflazione, la disoccupazione, le borse oggi in forte calo e soprattutto lo spread che vola, ha raggiunto i 407 punti in questo momento. Come detto, ne parliamo tra pochissimo. Apriamo però con la notizia che vi abbiamo già anticipato a mezzogiorno, ovvero le condanne del Tribunale di Milano al termine del processo per la tentata scalata a BNL da parte di Unipol. Ci aggiorna in diretta Raffaella Calandra. Sì, dopo Antonveneta arriva un'altra condanna per la stagione delle scalate bancarie incrociate del 2005, quella per i protagonisti della tentata conquista di Unipol su BNL. Condannato l'ex governatore di Banca Italia Antonio Faccio per aggiotaggio e ostacolo agli organi di vigilanza a 3 anni e 6 mesi. Condannato l'ex numero uno di Via Stalingrado Giovanni Consorte a 3 anni e 10 mesi. Anche la stessa compagnia assicurativa bolognese, la Unipol, è stata condannata a versare una provvisionale di 15 milioni, sono praticamente i risarcimenti per gli spagnoli del BBVA che per i giudici milanesi sarebbero stati ostacolati nella loro contemporanea tentata di scalata sulla BNL. Verdetto negativo anche per tutti gli immobiliaristi coinvolti nel progetto Unipol BNL, da Stefano Ricucci a Danilo Coppola, da Statuto al finanziere Emilio Gnutti, ai fratelli Lunati, fino a Francesco Caltagirone e all'ex europarlamentare Vito Bonsignore. 3 anni le condanne anche in questo caso. Siamo ancora più costernati, commentano i difensori dell'ex governatore Fazio, che preannunciano ricorso in appello contro il verdetto, che invece raccoglie praticamente quasi in toto le richieste dei PM Gaetano Ruta e Luigi Orsi. Esce invece assolto per volontà dei giudici di primo grado milanese Frasca, che era l'ex braccio destro di Fazio, e per ora dal Tribunale di Milano è tutto. Grazie Raffaella, e noi restiamo con la cronaca giudiziaria con la notizia relativa all'onorevole Alfonso Papa. Non inquina le prove. Papa, che è in carcere dal 20 luglio, per questo potrà ottenere i domiciliari. Lo hanno deciso oggi i giudici della prima sezione del Tribunale di Napoli, che appunto scrivono che non è ravvisabile alcun concreto pericolo di inquinamento probatorio. E noi passiamo alla pagina delle borse, che è una pagina oggi particolarmente negativa, ma soprattutto a preoccupare ancora lo spread. Vero Deborah Rosciani? È ancora così. Buongiorno Anna-Rita. La vigilia del vertice del G20 di Cannes, previsto per il 3 e il 4 di novembre, non è per nulla serena, perché il rischio Italia è il tema dominante fra gli investitori internazionali, che anche stamattina, dopo i presagi già oscuri di venerdì, sono tornati a bersagliare di vendite il paese. Cosa è successo? Che ormai tutti gli investitori continuano a liberarsi in portafoglio di titoli dei paesi periferici, chi li mantiene invece in portafoglio chiede di essere remunerato a dovere, ed è quello che capita proprio al mercato italiano. Ad infliggere un nuovo duro colpo alla credibilità italiana, le notizie del fine settimana secondo le quali Fondo Monetario Internazionale ed Unione Europea hanno predisposto questo piano per proteggere Italia e Spagna dalla speculazione. Per la verità questo piano è già in corso di predisposizione da oltre un anno, ma il fatto che la notizia sia arrivata sabato ha appunto acuito di nuovo i timori generali. Questo che cosa ha comportato questa mattina? Ha comportato che lo spread fra BTP e Bund si è riportato di nuovo sopra i 400 punti base, che il rendimento sul mercato secondario per i titoli decennali, per i BTP, è ritornato sopra il 6%, al 6,14%. È finito sui massimi anche il rendimento del BTP a 5 anni, intorno al 5,83%, appunto ai massimi dall'introduzione dell'euro, e questa appunto è la situazione. Ma ha portato anche ad un netto calo delle borse. Il FTSE MIB a Piazza Affari è arrivato a perdere oltre il 2,5%, adesso non è che vada meglio, a meno 2,34%. Le vendite stanno colpendo pesantemente i titoli titoli bancari ed industriali, in particolar modo i big del credito, sono tutti in calo perché, come sapete, devono ricapitalizzarsi secondo quanto chiesto dall'Europa. Peraltro Unicredit ne parlerà in un consiglio di amministrazione il 14 novembre della possibile ricapitalizzazione. Il peggior titolo è Intesa San Paolo, perde il 5,52%, l'euro sul dollaro è 1,40. Io con le notizie così non proprio buone, Anna Rita, ho terminato. Grazie Deborah, ti ringraziamo, ma continuiamo a parlare di notizie non positive, perché tu lo hai detto, in sofferenza ci sono i bancari, ed oggi alla presentazione del volume Le banche e l'Italia dell'Associazione Bancaria Italiana si è parlato di crisi e delle conseguenze proprio sugli istituti di credito. E allora noi ci colleghiamo con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, un grido d'allarme sull'evoluzione della crisi e quello che hanno lanciato le banche italiane riunite oggi a Palazzo Altieri alla presenza del capo dello Stato napolitano. Se l'Italia continuerà ad avere ancora difficoltà nella collocazione del proprio debito, ha detto il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo Giovanni Bazzoli, sarà ineluttabile per gli istituti una restrizione del credito con conseguenze negative per la crescita e l'occupazione, e se le banche non raccolgono capitali sui mercati l'unica prospettiva è l'intervento dello Stato in maniera diretta attraverso fondi sovrani, ma il ritorno ad un sistema bancario pubblico ci riporterebbe indietro di 30 anni. I banchieri si dicono anche preoccupati per l'accordo europeo raggiunto negli ultimi giorni che porta, dicono, misure che accentuano i rischi di restrizione del credito e che non incidono sul vero nodo della crisi, che è una crisi di fiducia sulla sostenibilità dei conti pubblici e sull'indebitamento sovrano. Invocano poi a governo e Parlamento misure per abbattere il debito e rilanciare la crescita, ma condannano anche le eccessive pressioni dei mercati sulle banche italiane non giustificabili dai risultati economici e patrimoniali degli istituti di credito. Sono preoccupazioni gravi e urgenti, infine commentato il presidente dell'ABI Giuseppe Musseri, se il nostro paese non reagirà come necessario che sia, i gravi scenari delineati non saranno scongiurabili, come si diceva, era presente anche il capo dello Stato, che però non ha rilasciato dichiarazioni. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra, e come avete sentito prima si guarda a questo punto al G20 del prossimo fine settimana. Se ci fosse un consenso sulla bontà delle misure europee, noi saremmo pronti a cooperare attraverso il Fondo Monetario Internazionale. Così il Brasile ha anticipato la linea che porterà al vertice di Cannes, mentre cresce la richiesta delle economie dei paesi BRICS di una maggiore rappresentatività sulla scena internazionale. Il governo brasiliano è disposto a partecipare a un pacchetto d'aiuto all'Eurozona, ma solo se erogate attraverso il Fondo Monetario Internazionale. La Russia si allinea, anche se non esclude di valutare aiuti bilaterali, che peraltro spiega in una nota Arkady Dvorkovich, consigliere per i dossier economici del presidente russo Medvedev, nessuno in verità ha chiesto. L'ora dei BRIC suona alla vigilia della riunione dei 20 di Cannes. Sulla Croisette questa volta si riuniscono i grandi dell'economia mondiale, che rappresentano l'80% del PIL e 2/3 della popolazione del pianeta. Brasile, Russia, India e Cina rispondono all'appello per la ripresa di Barroso, ma mandano a dire che è tempo di finirla di essere trattati da comprimari al Fondo Monetario Internazionale, senz'altro, ma anche alla Banca Mondiale e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Se l'Europa vuole aiuto, insomma, dovrà pagare pegno e farlo in termini di peso politico, contribuendo a modificare un'architettura dei poteri in cui all'FMI Roma pesa il doppio di Brasilia. Il tutto proprio mentre il Brasile di Dilma Rousseff è pronto a sorpassare nella corsa del PIL anche il Regno Unito, dopo aver lasciato indietro l'Italia già lo scorso anno. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. L'Europa non si aspetti che la Cina accorra al suo salvataggio dalla crisi del debito, anche se Pechino farà ciò che può per aiutare un amico in difficoltà, afferma in un commento l'agenzia di Stato cinese. Il presidente Hu Jintao, intanto in visita di Stato a Vienna, si è detto oggi fiducioso nella capacità dell'Unione Europea di superare la crisi. Il commento di Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. L'agenzia di stampa di Stato Xinhua, a chiare lettere sabato, ha dichiarato che la Cina ha scarse intenzioni di sostenere il Fondo di Stabilità Europea. Questa cosa non è una sorpresa, primo perché l'opinione pubblica cinese è fortemente contraria, c'è molto scetticismo in Cina sulle possibilità dell'Europa di cavarsela. Il presidente del Fondo di Stabilità Europeo, Klaus Regling, ha fatto un errore madornale da principiante, venendo venerdì in Cina, il giorno dopo dell'approvazione dell'allargamento del fondo, troppo vicino all'approvazione, troppo venditore, troppo umiliante. A questo punto i cinesi chiederebbero delle condizioni tali, così pressanti per entrare nel fondo, che credo che non convenga all'Europa averli e non convenga agli stessi governanti cinesi schedare un'opinione pubblica così diffidente. Sostanzialmente il cinese medio dice: ma perché dobbiamo dare il frutto dei nostri sacrifici e 30 anni di lavoro per sostenere un'Europa che ha sempre voluto vivere al di sopra dei propri mezzi? E in effetti non è facile dare risposta a questa domanda. Adesso parliamo dei dati Istat che sono stati diffusi oggi, tra pochissimo quelli sulla disoccupazione, ma l'Istat ha parlato anche del dato sui prezzi, ha diffuso il dato sui prezzi. L'inflazione ad ottobre ha registrato un aumento. Gli effetti della manovra e in particolare l'aumento dell'IVA pesano sul costo della vita. Lo certifica l'Istat, secondo cui nel nostro paese il tasso di inflazione annua ad ottobre è salito al 3,4%, riportandosi ai livelli dell'ottobre 2008. Stando alle stime provvisorie, l'aumento su base mensile è dello 0,6% ed è il rialzo maggiore dal giugno del 1995. Forti incrementi si registrano in particolare sui prezzi dei carburanti. Quello della benzina è aumentato del 17,8% su base annua, quello del gasolio invece del 21,2%. Anche il prezzo del gas naturale sale dell'11,3%, mentre resta stabile quello dell'elettricità. Secondo l'Istat, sul piano tendenziale, i maggiori tassi di crescita interessano le categorie trasporti, alcolici e tabacchi, abitazione, acqua, elettricità e combustibili. In particolare, su base annua continuano la loro corsa poi i prezzi di caffè più 15,9% e zucchero più 16%. In flessione risultano invece i prezzi delle comunicazioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo dunque il dato relativo ai prezzi, ma preoccupa molto anche quello sulla disoccupazione, che a settembre è balzata all'8,3% dall'8% di agosto, riportandosi ai livelli del novembre 2010. Forte aumento soprattutto della disoccupazione giovanile, che si colloca ai livelli massimi dal 2004 al 29,3%, con un aumento congiunturale di 1,3 punti percentuali e più alto del tasso OCSE. Cala alla 56,9% il tasso di occupazione. Dati che si innestano nel dibattito italiano in corso sulle misure anticrisi che Berlusconi ha annunciato a Bruxelles e che comprendono, lo sapete, licenziamenti facili in aziende in stato di crisi. Fa discutere in particolare nelle ultime ore l'allarme lanciato dal ministro Sacconi sul rischio terrorismo. Spero parli perché ha elementi e non per inquinare il clima, ha dichiarato Susanna Camusso. Il rischio oggi non è maggiore di ieri, commenta il giuslavorista e senatore PD Pietro Ichino. Lo ha intervistato la nostra Maria Luisa Pezzali. Credo innanzitutto che il rischio di un'azione violenta da parte di terroristi non sia oggi maggiore di ieri e comunque non debba essere usato per limitare il dibattito sulle questioni di politica del lavoro, soprattutto sulle questioni calde e delicate come quella che è sulle prime pagine dei giornali in questi giorni. Certo, c'è anche un altro modo sbagliato per limitare il dibattito ed è quello di erigere dei tabù. Credo che i sindacati farebbero bene a non ricorrere a questa vecchia tecnica di propaganda per bloccare, stroncare il dibattito sul nascere. Dire questo non si tocca, su questo il legislatore non può intervenire, è sbagliato e contribuisce ad alimentare la tensione. 13 e 17 minuti, nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato delle piazze europee, oggi in forte calo, e dello spread che ha raggiunto 407 punti. Abbiamo parlato di BNL e Unipol e delle condanne che sono arrivate oggi dal Tribunale di Milano: a Fazio 3 anni e 6 mesi, a Consorte 3 anni e 10 mesi. Abbiamo parlato anche dello scontro sui licenziamenti facili, l'allarme terrorismo di Sacconi è arrivato ieri, oggi Ichino a Radio 24 dice che il rischio oggi non è maggiore di ieri. Tra pochissimo parleremo anche di criminalità, di Milano e Roma, maglia nera dei reati e il quadro che emerge dall'analisi del Sole 24 Ore. Una buona buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio. Allora, questi erano i nostri titoli. In primo piano però noi ci soffermiamo sull'alluvione in Liguria, perché arriva preoccupazione, perché c'è un nuovo fronte, nuove piogge che potrebbero abbattersi sulla Liguria. Restano 4 i dispersi, 2 commercianti, un'anziana di Vernazza e una donna di Borghetto Vara. È il 6° giorno di ricerche, in mare con le motovedette e tra il fango con le pale. A Monterosso e ad Arbus, il paese della Sardegna di cui era originario, è lutto cittadino per Sandro Usai, il volontario di 40 anni ripescato cadavere ieri al largo di Punta Mesco. Sul fronte delle comunicazioni si riaprono via via le provinciali, mentre soprattutto in Val di Vara molte strade comunali non esistono più. Alcune frazioni restano di fatto ancora isolate. A Brugnato i bambini si preparano per la festa di Halloween, un segnale che la vita deve riprendere comunque. E c'è anche chi specula sulla tragedia. Si susseguono le segnalazioni alla finanza di beni di prima necessità venduti a prezzi stratosferici. Intanto si guarda i prossimi giorni con crescente preoccupazione. Da giovedì nelle zone alluvionate è atteso il ritorno della pioggia. L'assessore regionale alla protezione civile, Renata Briano. Si prevede un picco di questa piovosità nella notte tra sabato e domenica. Si prevedono piogge forti, però è anche vero che le previsioni si aggiornano continuamente e diventano sempre più precise 48 ore prima. Ci fossero situazioni di particolare pericolo, sì, si tratta eventualmente di sgombrare, evacuare qualche casa. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. E sulle cause dell'alluvione alle Cinque Terre in Liguria, Francesco Maesano ha intervistato la presidente onoraria del FAI, Giulia Maria Mozzoni Crispi. I disastri delle Cinque Terre parlano e dicono quello che noi ambientalisti diciamo da 40 anni. Alla base di questo che cosa c'è? Prima di tutto avidità di denaro. Secondo, la noncuranza delle leggi. Terzo, ignoranza delle leggi. Quarto, fatto che il governo non ha mai fatto una severa prevenzione su tutto il nostro territorio, che è un territorio delicatissimo. Siamo tutti colline, montagne, avvallamenti, eccetera, eccetera. I costruttori guadagnano perché col cemento, facendo queste strade, anche le strade è un altro dramma, col cemento, con l'asfalto, con le costruzioni si guadagna e subentra l'ignoranza di quello che chiede di avere una casa e lui se rinfischia non si informa dove questa casa viene costruita. Ma ci sono altre cause anche. Abbandono dell'agricoltura in zone difficili come le Cinque Terre. Difatti, i terrazzamenti che sono stati mantenuti sono rimasti in piedi. Poi, siccome c'è l'abbandono dell'agricoltura, i boschi non sono più curati o vengono tagliati completamente, non vengono mantenuti bene. E i corsi d'acqua anche vengono abbandonati, allora si formano delle dighe con i rami caduti eccetera, e in più le strade seguono le montagne. Era ovvio che questo succedesse, continua a succedere sempre di più. L'uomo ha delle grandissime colpe a questo riguardo, a cominciare dal governo. E adesso ci spostiamo in Libia, dove ieri è arrivato l'annuncio shock del premier dimissionario del Consiglio di Transizione libico in relazione alle armi nucleari che si troverebbero del paese, e dove oggi c'è invece da segnalare la visita a sorpresa di Rasmussen. Siamo peraltro nell'ultimo giorno della missione aerea della NATO in Libia, e allora di tutto questo parliamo e lo ringraziamo con Alberto Negri, che è in collegamento con noi. Alberto, un'ultima giornata particolarmente movimentata. Ma sì, direi che questa missione del NATO si chiude come iniziata. Era cominciata con i raid francesi dei Mirage su Bengasi, sui carri armati di Gheddafi, e si conclude con questa visita di Rasmussen, che è arrivato a Tripoli con un C-130 scortato dai Mirage francesi, per l'appunto. È la fine di una missione, ha dichiarato Rasmussen, e dovrebbe continuare l'ONU, dicono. Ma sappiamo che c'è già una proposta sul tavolo per una missione fatta da cosiddetti amici della Libia, promossa dal Qatar. Forse ci sarà anche quello dell'ONU, ma sicuramente, per esempio, questa missione libica, che chiaramente ha avuto come protagonista la NATO, gli europei con i francesi e gli inglesi, vede anche l'ascesa di stati del Golfo, appunto come il Qatar, che sono diventati un po' protagonisti anche della scena internazionale. Grazie, grazie ad Alberto Negri in collegamento con noi per questi aggiornamenti. Noi torniamo in Italia per parlare di reati che calano, o almeno calano le denunce dei reati, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, oggi in edicola. Dopo 2 anni di vistosi arretramenti si è quasi arrestato nel 2010 il calo dei reati nelle province italiane. Secondo le elaborazioni del Sole 24 Ore su dati dell'Associazione Nazionale Forze di Polizia, il totale dei delitti denunciati si è attestato intorno a quota 2.600.000 con una flessione di appena lo 0,4%. Ma mentre alcuni reati risultano decisamente in calo, come gli omicidi, le rapine, i furti di auto, a registrare una preoccupante crescita sono i furti nelle abitazioni. Più 12% a livello nazionale, ma più 26% a Milano e a Roma. Il capoluogo lombardo risulta anche il più colpito per numero e frequenza di fatti criminosi, oltre 275.000 le denunce nel 2010, quasi 7 ogni 100 abitanti. La sardo-aristana è invece la provincia che vanta la minore incidenza. Quanto a Roma, è seconda a Milano per volumi complessivi, ma accusa aumenti a 2 cifre, oltre che nei furti in casa, nei borseggi, nelle rapine e negli scippi. Rossella Cadeo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Redditi non dichiarati per oltre 570 milioni di euro e 9 milioni di euro recuperati. Valentina Furlanetto ha fatto il punto sulle indagini scaturite dalla cosiddetta lista Falciani o Falciani. L'elenco trafugato a questo dipendente della banca svizzera HSBC, che conteneva una lista di nomi di presunti evasori, di cui 7.000 italiani. Sentiamo l'intervista con il tenente colonnello Gianluca Campana del Comando Generale della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza ha acquisito quella che è comunemente nota come lista Falciani, utilizzando i canali ufficiali della collaborazione amministrativa ai fini fiscali, quindi si tratta di documentazione acquisita in maniera rituale e ufficiale. Noi abbiamo, nei confronti di questi soggetti, abbiamo avviato i nostri piani di controllo. Abbiamo al momento avviato oltre 3.000 verifiche, di cui 2.700 ne abbiamo concluse, e ci hanno scoperto di individuare redditi non dichiarati dai contribuenti per oltre 570 milioni e individuato circa 170 soggetti responsabili di reati tributari che abbiamo denunciato alle procure della Repubblica. In questo contesto abbiamo altresì individuato 76 persone che non avevano mai presentato la dichiarazione dei redditi, si tratta dei cosiddetti evasori totali. Di questi soggetti verificati abbiamo anche riscontrato, a testimonianza dell'attendibilità dei dati e della bontà delle nostre investigazioni, che una parte di questi, oltre 150, hanno già aderito ai nostri verbali di constatazione e hanno pagato oltre 9 milioni di euro. Chiudiamo con il calcio. La domenica della Serie A ha visto protagoniste Lazio e Udinese, che hanno vinto e restano appaiate al secondo posto, ma soprattutto è stata la giornata delle preoccupazioni per lo stato di salute di Cassano. Oggi se ne continua ovviamente a parlare, non è molto chiara la situazione, vero Dario Ricci che è qui accanto a me? Sì, buongiorno. Beh, non è chiara, soprattutto non sono chiare soprattutto le cause di questo malore che ha colpito Sant'Antonio nella notte di sabato di ritorno dalla trasferta vittoriosa di Roma, mentre va in via di miglioramento comunque il quadro clinico. Pochi istanti fa è arrivata la dichiarazione di Adriano Gagliani, l'amministratore delegato del Milan, proprio dalla Malpensa, prima di partire per Minsk, dove domani il Milan affronterà il Bate Borisov in Champions League. Ho sentito Cassano 5 minuti fa, era di buon umore, sereno, ha detto Gagliani, quindi notizie rassicuranti su questo malore che, lo ricordiamo, aveva provocato una sorta di svenimento, perdita delle capacità motorie, anche della possibilità di parlare almeno temporaneamente per Cassano. Però rimangono ancora sconosciute le cause di questo malore, su cui inevitabilmente bisognerà indagare ulteriormente nelle prossime ore. Ancora dichiarazioni da parte dell'amministratore delegato del Milan, che dice c'è la privacy sulle motivazioni del malore, ma nulla a che fare col calcio. Grazie a Dario Ricci. E noi chiudiamo parlando di arte. A Palazzo della Ragione a Padova è allestita fino al 13 febbraio la mostra della Biennale Internazionale di Architettura Barbara Capocchin. Si intitola Superurbano, rigenerazione urbana sostenibile, e racconta 19 esperienze di riqualificazione e rinnovo urbano in chiave sostenibile realizzate in diverse città del mondo. Esempi di come dovrà essere la città del futuro. La mostra è curata da Andrea Boschetti, lo ha intervistato Adriana Fracchia.